Ci sono riflessioni che hanno un peso morale non indifferente, ma che a nulla serve scansare o ignorare. La parola di Dio contiene senz'altro il più bel messaggio d'amore che l'umanità possa ricevere. È piena di incoraggiamenti per lo stanco, per il deluso, per lo scoraggiato, per il depresso, per il perduto, per chi è smarrito. Ma, di tanto in tanto, vi sono accenni molto seri che non si possono evitare. Uno di questi è rivolto a coloro che hanno avuto la possibilità di conoscere le vie di Dio, che hanno goduto per un poco di tempo del benessere procurato da una vita retta, ma poi sono ritornati alla vita di prima. Nella mia esperienza di vita cristiana ho presente 11 ragazze che hanno fatto professione di fede in Cristo e poi, per il modo in cui hanno condotto la propria esistenza, hanno palesemente rinnegato che Gesù fosse il loro Signore. Queste ragazze sono identificabili in ciò che l'Apostolo Pietro scrive nella sua seconda lettera, al capitolo 2. Quelli infatti che sono fuggiti dalle contaminazioni del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù, Cristo, se sono da queste di nuovo avviluppati e vinti, la loro ultima condizione è peggiore della prima, poiché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, anziché, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. Ma è avvenuto loro ciò che dice un vero proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a voltolarsi nel fango. 2.2022. Parole pesanti, abbinamenti con animali che lasciano ancora più sconvolti. Ma è meglio affrontare una realtà piuttosto che evitarla. Come ho detto, ho presente 11 ragazze, i cui nomi sono Paola, Elisabetta, Deborah, Jennifer, Elisa, Maris, Sonia, Shirley, Alessandra, Marzia e un'altra Elisa. 11 nomi, con 11 storie aventi un denominatore comune, la scelta di un ragazzo non credente. Apparentemente il fatto che una persona professata sì, credente, si unisca sentimentalmente con un incredulo sembra cosa da poco, ma in tutta la Bibbia. Un matrimonio tra un incredulo e un credente è considerato sbagliato. Da un punto di vista umano, scegliere un bravo ragazzo incredulo come marito potrebbe anche andar bene. Tuttavia, se Dio ritiene una cosa sbagliata, essa è tale. La nostra opinione non ha valore. Parliamo ora di queste ragazze. Paola è secondogenita di 3 fratelli, il primo dei quali affetto da alcuni problemi psicologici. I genitori non sono molto istruiti, ma sanno volersi bene. Sanno inculcare ai loro figli il senso pratico della vita. Vivono con una fede cristiana serena e schietta. Paola cresce in questa atmosfera, accetta il Vangelo di Cristo e si impegna nelle attività della Chiesa. Al ritorno di un viaggio in macchina con altri giovani, subisce un incidente stradale, nel quale 2 di questi muoiono. Paola non perde coraggio e neppure la fede. Appena ristabilita, testimonia in modo accattivante di come Dio l'ha aiutata e benedetta. Ancora oggi sono dispiaciuto di non aver registrato tale testimonianza e, ancora una volta, ho visto come dopo una drammatica esperienza si possa parlare in modo divino. Nonostante tutto, poco dopo la ragazza si sposa con un incredulo dal quale ha vari figli e l'esperienza cristiana rimane solo un lontano ricordo. Elisabetta nasce da una brava coppia di sposi zelanti nell'opera di Dio. Riceve fin da piccola ogni insegnamento cristiano, vede lo zelo dei suoi genitori, non ha problemi economici, ma il suo cuore desidera ardentemente un ragazzo che le piaccia. Nella chiesa dove frequenta non ce ne sono. Ha bisogno di affetto, le piace un incredulo e se lo sposa. Anche perché la madre non è del tutto contraria, dato che è stata delusa nell'ambito cristiano. Elisabetta abbandona la chiesa, tuttavia, insegna al figlio il timore di Dio, a vivere per lui. Ma il bambino, quando sarà grande, cosa dirà di questa incoerenza? Non si può trasmettere con efficacia ciò che non si vive. Deborah, una bella ragazza che accetta senza protestare la fede dei suoi genitori. Suo papà ha una vita cristiana che lascia a desiderare e le liti in casa non mancano. Lei ne rimane traumatizzata e, se anche partecipa al gruppo dei giovani, non ne rimane spiritualmente coinvolta più di tanto. Il pensiero dei genitori è un peso e lei inizia a frequentare amicizie nelle sale da ballo. Inevitabile e fatale il suo incontro con un incredulo, si sposa e si eclissa totalmente dalla Chiesa. Jennifer. Una ragazza tutta d'oro, cresciuta in una famiglia di 5 figli, con una madre divorziata e risposata, non mostra di avere grilli per la testa, anche se rivela subito un carattere determinato come la madre. Nelle conversazioni con lei colgo il suo dolore per la separazione da suo padre e, forse, rancore per sua madre. E, in cerca di affetto, ci sono bravi giovani con i quali esce, qualcuno si fa avanti, e lei, per non essere diversa dalle sue amiche incredule, si lascia rivolgere attenzioni da non credenti. Arriva quello buono, con il quale inizia una relazione pre-matrimoniale. Inevitabilmente abbandona la fede professata con tanto ardore e, come spesso succede, finito il periodo magico, il ragazzo la lascia. Attualmente non ha più fede, né il ragazzo per il quale ha rinnegato Cristo. Elisa, uno stupendo fiore dove ogni ape vorrebbe posarsi. Ha un corpo perfetto, un viso delicato e atteggiamenti attraenti. È figlia di una bella straniera separata dal marito, interessata al Vangelo, ma volubile, la quale ha una relazione con un uomo docile. Elisa, come ogni figlio, impara subito a respirare quest'aria inquinata, è attratta da Dio quanto dai ragazzi. Ovviamente non le mancano i corteggiatori, e dato che il suo desiderio per le cose spirituali non supera quello per il ragazzo, si lascia accalappiare quando vuole. La sua relazione con un ragazzo incredulo le impedisce moralmente di frequentare regolarmente il gruppo giovanile della Chiesa. Anzi, contagia altre ragazze e alla fine prende la decisione di abbandonare ogni sentimento religioso. È proprio vero che il Vangelo allontana dal peccato tanto quanto il peccato allontana dal Vangelo. Maris. Una ragazza intelligente e istruita, figlia di 2 sposi impegnati totalmente negli affari, ma pieni di amore per l'opera di Dio. Non le manca niente e tutto è a sua disposizione. Nelle conversazioni la trovo vuota e insoddisfatta, nonostante con lacrime abbia fatto una precisa e decisa professione di fede in Cristo. Colgo che possiede una fede che non produce in lei la piena soddisfazione, una fede non messa in pratica e che perde presto, quando trova disperatamente un qualsiasi ragazzo per colmare questo vuoto. Si può avere tutto e sentirsi poveri, ma chi ha conosciuto l'amore di Cristo realizza che ha tutto, soprattutto nell'aspetto affettivo. Sonia. Una ragazza taciturna, introversa, frequenta il gruppo giovanile fin da piccolissima. Ho l'occasione di vederla sbocciare nella vita, ma non parla. Vedo che ascolta, osserva, sembra assente. Ma di tanto in tanto abbozza un opportuno sorriso. Mostra di apprezzare gli insegnamenti cristiani. Ma sembra tenerli a distanza, come se fossero pericolosi. Fa una professione di fede, ma con un'apatia da far gelare il cuore. È sincera oppure no? Solo Dio conosce i cuori. Non è molto corteggiata dai ragazzi della chiesa, anche perché non è una bellezza pari alle altre. Così, alla fine, trova un incredulo che l'apprezza fisicamente. Lo sceglie e perde la fede. S-H-I-R-L-E-Y. Una ragazza che non può, ha scuse per le sue scelte sbagliate. E, figlia di missionari, perciò viene istruita fin dalla culla nelle cose di Dio. Fin da piccola fa professione di fede e, appena può, studia in una scuola biblica. È carina, ma nella chiesa vi sono pochi giovani da scegliere. Si lascia corteggiare non da un incredulo, ma da un religioso. Se avessi dovuto scrivere la sua biografia, avrei proprio scritto ciò che è successo. Mentre le altre ragazze sono state sedotte da un incredulo, la seduzione per Shirley non poteva arrivare se non nella forma religiosa. Infatti trova un ragazzo che studia la Bibbia con una certa accattivante serietà, ma non vuole saperne di una relazione personale con Cristo. Shirley non lo capisce. Così, unendosi a lui in matrimonio, ne sposa anche le idee e lascia la fede ricevuta fin da bambina. Quando la giusta fede si unisce con una falsa, non è la falsa fede a esserne migliorata, ma è la vera fede a perdere ingenuinità. Alessandra, colgo subito in questa ragazza dei ragionamenti che zoppicano. E bella, carina e anche femminile, ma lei rifiuta la sua femminilità. Vuole sembrare un maschio, fino a farsi anche rapare a zero per non avere quei suoi bellissimi capelli. Forse per questo non è molto estroversa, ma nonostante ciò è inclinata verso le cose che appartengono a Dio. Fa professione di fede, parla volentieri intelligentemente con me dei misteri di Dio, pone saggi interrogativi. Ma anche lei, nonostante la lieve avversione per la sua femminilità, alla fine, invece di un giovane credente, sceglie la compagnia degli increduli. Molto probabilmente per il suo lieve problema, un ragazzo credente avrebbe potuto aiutarla, ma la scelta di frequentare degli increduli le preclude questa possibilità. Un uomo credente può riempire non solo il lato umano di una donna, ma anche quello spirituale. Marzia. Figlia di una credente impegnata nell'opera di Dio, la quale in età avanzata sembrava volersi sposare ad ogni costo, trova un bravo uomo, molto più giovane di lei, così tanto bravo da non scegliere mai Cristo. La madre più volte ha parlato di Cristo quale Salvatore e Signore a Marzia. Ma per la ragazza il messaggio che le arriva più forte è il comportamento della madre e non le sue parole. La madre è una donna piena di buoni sentimenti umani, ma non sottomessi a Dio. E Marzia nei suoi sentimenti segue le orme della madre. Il papà è d'accordo, la madre ha la bocca imbavagliata, e così Marzia si sposa con un bravo ragazzo incredulo vivendo senza Dio nel mondo. Elisa. Un'altra bravissima ragazza, la cui madre, con un determinato e fermo impegno, accetta l'Evangelo, dopo una relazione sentimentale sbagliata. Dopo la conversione la madre sposa un bravo giovane credente, ma severissimo, il quale pian piano abbandona sposa e figlia. Ed Elisa, educata dal padre con una morale molto rigorosa, riceve sì l'educazione spirituale dalla madre e dalla chiesa alla quale appartiene, ma finisce poi per buttarsi tra le braccia di un bravo ragazzo, incredulo, senza ricevere la disapprovazione del padre. Un padre impegnato negli affari che vanno a gonfie vele e che ha abiurato la fede, una madre con un passato tempestoso incidono profondamente nella mente di questa bravissima ragazza, la quale si era sottomessa al Vangelo, molto probabilmente con lo stesso terrore provato dinanzi all'autorità del padre. Queste sono le storie di 11 ragazze che erano fuggite dalla contaminazione del mondo per mezzo di Cristo, le quali tuttavia, come la scrofa lavata, in seguito sono tornate alla vita di prima. Per loro, come è scritto, sarebbe stato meglio non aver conosciuto la via delle... Quel meglio è un tremendo avvertimento per tutti coloro che conoscono il Vangelo. 11 esempi che dovrebbero mettere in guardia tutti noi, ma soprattutto le giovani ragazze. Non ci si può beffare di Dio. Maggio 2010. Ellero.